Ecco, allora direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Siamo di nuovo qui al Centro Trevi per un'iniziativa della Biblioteca Provinciale Claudio Busca. Come ogni settimana, per due volte a settimana, lunedì e giovedì, organizziamo degli incontri con autori e autrici prevalentemente del territorio o legati a questo territorio, oppure che raccontano anche questo territorio. È il caso questa sera di Ada Zappelli Zucker, che non è al suo esordio ma ha scritto parecchi romanzi di successo. Li abbiamo presentati anche precedentemente sempre in biblioteca, ma è conosciuta a livello anche nazionale, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi. Ricordo il precedente romanzo, Racconto la cucchiara. Ada Zappelli, di origine siciliana, vissuto in Alto Adige, vive attualmente a Monaco. Diciamo che si muove in un asse nord-sud e ha un bagaglio di esperienze culturali, ma anche personali, emozionali, che emergono in maniera molto interessante nei suoi racconti. Ecco. Poi spazia anche in un ambito cronologico molto ampio, perché ci ricordiamo appunto il libro sulle catacombe, quindi siamo in un periodo appunto della Seconda Guerra Mondiale, per arrivare a temi molto più attuali. Questa volta racconta, ci ha detto, anche Monaco, no? In questo nuovo romanzo, che è molto bello. Siamo contenti di poterlo presentare qui in biblioteca e siamo anche molto contenti di avere con noi Fabio Zamboni, che ci accompagna in questa serata. Vi ricordo che ne abbiamo allestito una vetrina dei racconti, ci sono poi libri da acquistare, e mi diceva il signor Zucker, l'editore, che c'è anche un gadget per chi poi acquisterà un volume. Che è questa penna? Aspetta, perché adesso la dimostrazione. Oh, okay. Bene, allora io direi che questo basta. Avete qualche cartolina dell'iniziativa di venerdì 28? Non saremo qui, ma saremo al centro in piazza Nicoletti ad Oltrisarco, e l'orario sarà alle ore 20:30. Alle ore 20, quindi un po' diverso dal solito, solo per questa settimana, perché siamo all'interno della cornice Spazio Libro. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Thank you. conosciuto la mamma da giovane? Certo, subito dopo tuo padre. Lui non seppe mai di questo incontro, non lo considerai necessario. E credo anche tua madre abbia mantenuto il segreto. Venne qui, in questo locale, più di 20 anni fa, forse 24, non ricordo bene. Allora aveva un altro nome, credo si chiamasse Extrablatt, ed era frequentato da un certo tipo di gente, un po' particolare, come adesso del resto. E si guardò intorno. Il nome era diverso, Formula 1, ma il pubblico è lo stesso. Non so perché lo scelse, forse perché facilmente raggiungibile con la metropolitana, o per una sorta di anonimità, che già allora era la caratteristica di questo locale. Le chiesi di incontrarci a quest'ora, alle 3 del pomeriggio, e l'attesi a questo tavolino, come adesso l'ho atteso te, bambina mia, Mankind. Un suo modo di intercalare subito dopo ogni frase. Mi piacque subito questo suo inizio, senza preamboli, quasi senza salutarmi. E la voce dolce, il tono familiare, anzi confidenziale, come di chi mi conosce da sempre. Tacque continuando a guardarmi, come incantata. Mi chiese se volevo bere qualcosa, Coca-Cola, e dalla mia gola venne fuori una voce strozzata, della quale mi vergognai subito. Mi sembrava di vedere mia madre seduta proprio dove ero io, di fronte alla moglie del suo spasimante. Papà spasimante, che buffa idea. Come si sarà sentita? Anch'io mi sono sentita strana, in qualche modo fuori posto. Io seppi subito della sua esistenza, dell'esistenza di tua madre. Posso dire, appena mio marito lo conobbe. Avevamo 2 abbonamenti ai concerti della Hercules, sai? Tu sai dov'è? Dietro la residenza. Quella sera ero un po' raffreddata e decisi di rimanere a casa. Lui andò. C'era un concerto che lo interessava, non ricordo più che pianista di fama internazionale avrebbe suonato fra il primo e il secondo libro dei preludi di Debussy. Erano appunto i preludi di Debussy che lo interessavano. Ne suonava qualcuno anche lui. Mi raccontò di aver intravisto, fra una piccola folla di studenti nei posti in piedi, una ragazza, la fille Ochevet d'Alain, come la chiamò poi sempre. Con un cenno della mano la invitò a sedere accanto a lui, assicurandola che il posto sarebbe rimasto vuoto per tutta la serata. E così ascoltò il concerto seduto accanto al preludio di Debussy in carne ed ossa. Durante la pausa, poi, la invitò a bere qualcosa con lui, tempestandola di domande, come era sua abitudine. Tua madre era estremamente timida, gli disse, imbarazzata che un uomo di una certa età si interessasse tanto a lei. Era studentessa della Musikhochschule, felice, fiera di aver superato l'esame di ammissione. 5 su 180 concorrenti, o forse 10 su 120, non ricordo bene. Era piena di speranze. Voleva fare la cantante lì. Sognava la grande carriera, i palcoscenici di tutto il mondo, le sale da concerto e non so che altro. Tuo padre mi parlò di lei fino a tarda notte, ripetendo: è la creatura più bella che abbia mai visto in vita mia. Io lo pregai di spiegarmi che cosa consistesse quella bellezza e lui non faceva che ripetere: è bellissima, non la posso descrivere. Si può forse descrivere la bellezza o la musica? Si può ridurre le parole in parole un pensiero musicale, un preludio di Debussy? La fille Ochevet d'Alain. Debussy, componendo questo preludio, deve aver pensato a una creatura come lei, ineffabile, quasi irreale, tutta sospesa in una domanda che non è una richiesta, che non attende una risposta. Non ricordo altro. Conoscevo tuo padre da una vita, ma non lo avevo mai visto in quelle condizioni. Ero sconvolto, fuori di sé. Bene, buonasera anche da parte nostra, da parte di Ada Zappari Zucchera e mia. Buonasera. E grazie a Valeria Trevisan che ha debuttato come lettrice. Le note che avete ascoltato erano quelle, lo si capiva anche dal testo, e chiaramente molti di voi appassionati di musica classica l'hanno riconosciuto, il preludio di Debussy, noto come la ragazza dei capelli di lino, non mi avventuro nella pronuncia francese. E mentre il brano letto da Valeria fa parte del libro che presentiamo questa sera, La casa del nonno. Del resto c'è uno strettissimo rapporto tra la musica e il racconto, c'è uno strettissimo rapporto anche tra la musica e la vita della nostra scrittrice, che prima di tutto è stata una cantante lirica in carriera, prima di diventare docente di canto lirico a Monaco e a Bressanone tuttora. Il rapporto tra il racconto e la musica è strettissimo, perché il padre della protagonista chiama appunto ragazza dai capelli di lino la bionda svedese giovanissima di cui si innamora a Monaco e che diventerà poi la madre della protagonista. Questo poi capirete meglio lo sviluppo della storia, che è molto interessante. E la storia è quella di Serafina, una giovane che ai giorni nostri, quindi per la prima volta in un romanzo di Ada Zapperi Zucker, c'è anche una sequenza temporale che porta da una guerra, perché è sempre i teatri di guerra sono anche teatri di racconti di Ada, che ama molto la grande storia, inserire nella grande storia le piccole storie che viene a conoscere e che poi romanza nei suoi racconti. La storia è quella di Serafina che dalla Maremma, dove vive, va a Monaco per entrare in possesso della casa lasciatagli in eredità dal nonno. Solo che assieme all'eredità, assieme alla casa, ottiene in eredità anche una serie di grossi problemi che sono molto interessanti nello sviluppo della storia, un po' meno per lei, ma viene comunque con questo a conoscere anche un aspetto storico importante e forse sottovalutato, che è quello dell'arianizzazione delle case, e cioè dell'espropriazione da parte dei nazisti delle case degli ebrei. Ma prima di entrare nel contenuto, nella trama del libro insieme a Ada, partirei dalla genesi, perché questo libro ha una nascita curiosa, una genesi curiosa, perché il manoscritto è rimasto chiuso in un cassetto per 12 anni, prima di vedere la luce, con una breve pausa nel 2007-2008, quando il manoscritto è stato presentato a un concorso per inediti, appunto, quindi come manoscritto, non come libro stampato, vincendo il secondo premio al concorso della Regione Calabria. Ci racconti un po' questa, come mai il libro è rimasto 12 anni nel cassetto e... che adesso ce l'ho presente. Questo ha a che fare naturalmente col mio cattivo carattere, e cioè, lo devo dire subito, questo romanzo è rimasto chiuso semplicemente perché due editori avrebbero voluto stamparlo ma con un altro titolo, e io non potevo accettare di cambiare il titolo, anche perché è talmente pertinente questo titolo che mi hanno detto: ma è un titolo molto banale, va bene, allora niente, allora rinuncio. E l'ho dimenticato, è la realtà, l'ho dimenticato veramente. Ho detto, boh, se devo cambiare titolo lo posso anche buttare nel cestino della carta straccia, non mi interessa. E così è rimasto chiuso per tanti anni. Se non che forse 6 mesi fa, improvvisamente c'è stata un'occasione particolare per cui avevo necessità di un romanzo. E l'ho ritrovato e ho detto, beh, perché no, stampiamolo con questo titolo. Ed è effettivamente rimasto. Penso che il titolo sia anche fondamentale per un libro, perché praticamente contiene il succo di tutto il romanzo, è molto importante. Bene, entriamo allora nella storia. Abbiamo detto che è centrale questo fenomeno dell'arianizzazione, cioè dell'espropriazione, certo. Perché questa casa è stata espropriata da un esponente nazista a una famiglia ebrea. Certamente. Qualcosa su questo fenomeno, e però dicendo anche qualcosa sul fatto che questo è un romanzo che si inserisce nella storia, ma anche un romanzo di formazione. Soprattutto. Per me è molto importante, perché chi scrive è una ragazza di 20 anni, cioè è la generazione dei nipoti, se non dei pronipoti addirittura, dei nipoti di un certo periodo storico europeo che i genitori hanno voluto ignorare. Io mi riferisco naturalmente alla Germania, perché vivo lì e la storia si svolge in Germania. Parte della storia si svolge in Toscana, chiaramente, perché la ragazza è nata in Germania, in Toscana, è vissuta lì, è andata a scuola lì, e quindi lei si sente a un certo punto tirata da tutte le parti. La madre è svedese, il padre è tedesco, lei è nata in Italia, è andata a scuola in Italia, lei scrive in italiano ed è venuta a Monaco per studiare all'università e deve imparare a scrivere anche in tedesco, benché lei parli molto bene il tedesco, perché a casa sua si parlava il tedesco, ma lei parlava svedese anche con la madre. Quindi è un problema anche di identità molto abbastanza normale ai nostri giorni. la lingua nella quale noi ci identifichiamo, e lei lo urla veramente a lettere cubitali ogni volta: io sono italiana. Poi a un certo punto viene in crisi, perché effettivamente il fatto linguistico soltanto non basta per l'identificazione di una persona. E quindi è un romanzo anche di formazione, che ha a che fare con i nostri giorni e anche con la generazione di oggi, che si vede confrontata con molti problemi che hanno le loro radici nel passato. Basta guardare il Sudtirolo, scusate se ve lo dico, siamo subito in casa con i problemi. Visto che hai parlato di crisi di identità, la crisi che vive la ragazza, nel senso che non sa dire se è più italiana, più svedese, certo, o più tedesca, puoi averla vissuta anche tu nella vita reale, nel senso che trasferita dalla Sicilia a studiare poi a Roma, a Vienna e infine a Monaco. Certamente. Hai avuto anche tu? No? È una cosa che, dunque, la crisi di identità io personalmente non credo di averla avuta, perché ho avuto un padre molto strano a confronto di tutti i padri, il quale era dell'opinione che soltanto gli alberi hanno radici, ma gli esseri umani no. Allora, questa cosa mi ha seguito tutta l'infanzia, è una cosa molto importante, perché in questo modo io praticamente non ritrovo in me delle radici, nel senso che sono piantata lì. Siccome sono nata in Sicilia, sono siciliana, certo sono siciliana, chiaramente e lo noto più tempo passa e più lo noto, devo dire. È molto un'eredità abbastanza pesante, scusate. Qui non ci sono siciliani che posso offendere, per fortuna. Un'eredità molto pesante, della quale ho tentato tutta la mia vita di liberarmi. Ecco, adesso sono una persona libera dalle radici. E il libro per la prima volta ha una dedica esplicita, in questo caso alle vittime delle discriminazioni, soprattutto razziali. Esattamente. Come hai scelto proprio di dare una dedica esplicita? Perché allora dobbiamo, siccome è come una specie di giallo, scusate, un giallo storico che non ha niente a che fare con gli assassini, questa volta non ci sono, però ci sono dei crimini, e dovrei raccontare però chi, cosa succede in questo libro. Devo farlo? Una sintesi. Mi dai permesso? Se no poi non comprano più il libro. Scusate. Togliamo. No, questo è mio marito, non sono io. Lui è colpevole. Almeno abbiamo i mariti perché siano colpevoli di qualcosa, no? Ma poi è comunque musica, quindi. Sì, va bene, ma insomma. Ad ogni modo, il fatto fondamentale è che questa casa non è disabitata. È una grande casa a Monaco, in una strada molto importante, una grande casa, dove abita una vecchia signora e un gatto. È molto importante. Io ho scritto, l'unica cosa che ho scritto nel libro è che il vero personaggio, vero, esistente, è il gatto, che io ho conosciuto personalmente e che ha vissuto ben 24 anni. Ed era esattamente l'incontro che c'è nella prima pagina, quando lei arriva in casa. Ci tengo moltissimo perché è una cosa alla quale tengo moltissimo, anche se lui la voleva buttare da una parte. Il fatto è questo, che questa ragazza entra in questa casa e la prima cosa che fa è l'incontro con questo gatto che le salta addosso e la graffia. Era come una specie di tigre. Ecco, questo incontro non è inventato, devo dirlo subito, perché non c'entra niente col romanzo, ma in un certo senso per voi, pubblico, è importante sapere come nascono gli episodi, le storie, come si scrive una storia. Io non mi invento quasi niente. Dunque, io molti anni fa sono stata invitata da una mia allieva a Parigi, dove sua nonna era in vacanza. Ha detto: lei può abitare a casa mia. Vengo in questa casa, lei apre la porta e questo gatto, che si chiama Fusé, è lo stesso gatto che io descrivo, mi salta addosso e mi graffia le gambe. Devo dire che qui la differenza è che lei aveva dei jeans e quindi era un po' meno doloroso. Io invece d'estate non avevo niente, quindi pezzi di pelle, di carne, e io mi sono vendicata, ecco, l'ho scritto qui. Però questo gatto ha un ruolo anche molto importante nella vita della vecchia signora e poi della Serafina. Ecco, ho parlato del gatto. Non eravamo d'accordo, non ci eravamo messi d'accordo su questo, ma io volevo parlare del gatto. No, possiamo ampliare, aspetta, abbiamo detto che la musica è centrale e nella tua vita e anche nella storia, nella trama di questo romanzo. E io chiederei a Valeria di leggere un altro passo, gentilmente, proprio su questo. Ci fa capire come anche nella trama sia protagonista la musica. È la prima volta nei miei romanzi, devo dirlo. La mamma cantava sempre le stesse arie e soltanto più tardi capì che si trattava di roba francese, o almeno in lingua francese, perché non conoscevo le parole che volta per volta riuscivo ad afferrare. Adieu, forêt, adieu. E il suo viso si trasformava. Io allora staccavo gli occhi dalle mani del pianista per incantarmi sul viso di lei. Com'era bella la mamma quando cantava e quanto strazio nella sua voce. Mario Gentilini diceva che dalla gola sgorgavano ruscelli di d'oro fino. Altre volte la paragonava ad acqua di sorgente, fresca e limpida, e non so che altri complimenti le faceva. La mamma arrossiva abbassando la testa confusa, la vedo ancora davanti a me, e ringraziava vergognosa. Poi riprendeva a cantare, ancora in francese, ancora disperata. Werther, Werther, e io già sapevo che ne sarebbe venuta fuori un'altra tragedia. Adesso, a distanza di tanti anni, mi chiedo perché cantasse sempre pezzi così di rimpianto, di dolore. A me quei complimenti del pianista non piacevano affatto, anzi, mi inquietavano, perché temevo che lei, rivolo d'oro filato, avrebbe potuto sciogliersi in una polla d'acqua pura e trasparente, abbandonando per sempre la sua forma corporea, per smettere di esistere come mamma. Infine, correva pericolo di fondersi in qualcosa di liquido, di freddo, una sorgente fresca e limpida, appunto, in fuga verso chissà quali acque impetuose che l'avrebbero accolta per mescolarsi a lei fino a possederla del tutto. Tremavo al pensiero che quella musica, quella voce, potesse portarmela via, lei già tanto lontana e smarrita in luoghi sconosciuti, dove a me non era permesso di entrare. Ricordo ancora quelle terribili fantasie e la mia sorpresa, sollievo dopo. Appena finiva di cantare, sorrideva infatti, sperduta, quasi facesse fatica a ritrovarsi nella realtà di quella sala da ballo. Quando cantava non la riconoscevo più, e se da una parte ero affascinata dal viso bellissimo, dall'espressione dei suoi occhi e dalla voce, da un'altra ero angosciata e gelosa. Che fatica scrivere questa parola. Chi era quella donna? In quale realtà viveva? E perché si allontanava da me? Si dileguava davanti ai miei occhi, si trasformava. Non era più la mia mamma, ma un'estranea, una sconosciuta, con le mani della mia mamma, i suoi jeans, il suo pullover a fiorellini ricamati dalla nonna svedese. E allora avrei voluto gridare, aggrapparmi ai suoi pantaloni, buttarmi per terra davanti a lei, per farle vedere che c'ero anch'io, la sua bambina, una parte di lei, per dimostrare a lei e al mondo, cioè al pianista, che lei mi apparteneva anche quando cantava. Che smettesse di cantare, soprattutto che smettesse, tornasse quella di prima, in tutta la sua sfuggente essenza, cui però ero abituata da sempre. Quella donna vibrante di passione non poteva essere la mia mamma. Ecco, che la musica prima o poi dovesse entrare in un tuo romanzo era inevitabile, direi. Però come c'è entrata? Cioè, qual è stata l'occasione? Ce lo puoi raccontare, perché è un episodio abbastanza curioso. Cioè, il fatto che una tua allieva ti abbia raccontato, quindi il rapporto con il tuo lavoro. È una storia, arte. Certamente, è la prima volta, devo dire, che io ho conosciuto Serafina, la protagonista di questo romanzo, che aveva 4 mesi. Era una bellissima bambina, una bambina deliziosa, che ascoltava la lezione di canto della mamma, che era mia allieva, semplicemente molto tranquilla, cosa molto strana per una bambina di 4 mesi. Da allora non l'ho più rivista, quindi dovrebbe avere 24-25 anni adesso. La Serafina, dunque, mi è balzata, quasi mi è venuta incontro, perché avevo bisogno di una protagonista giovane. Io ho conosciuto allora la madre, tutti i nomi cambiati, e ho conosciuto anche il padre, che stranamente, vi sembrerà molto strano, mi è stata presentata, come fanno tutte le mie allieve, dopo un certo tempo mi presentano i loro compagni. Perché? Non per loro scelta diretta, ma per i compagni sono un po' inquieti di vedere che c'è questa persona qui che comincia a cambiare la personalità delle loro donne. E allora mi arrivano, a volte arrivano le madri. È una situazione molto strana, perché una maestra di canto, quale io sono, è sempre un personaggio un po' ambiguo e pericoloso, perché aiuta normalmente una persona giovane a conoscersi, e questo può essere scomodo per chi le sta accanto. Allora, questa è una parentesi che non c'entra con la storia. Ad ogni modo, io ho conosciuto anche il padre di Serafina e so che effettivamente lui era sposato, come nella storia. Infatti il primo incontro che fa la ragazza è con la vera moglie del padre, la quale è una donna dolcissima, molto buona, affettuosa, che l'accoglie come una figlia, e lui praticamente ha abbandonato moglie e figli per andare con questa svedese in Italia. Lui è quello che c'è stato un periodo in Germania dove, e quella è una parola molto strana che non sono riuscita a tradurre, i cosiddetti Aussteiger, quelli che scendono. Aussteigen si dice, voi lo sapete tutti, quando uno è sul tram deve scendere, in möchte aussteigen. Ma quelli sono gli Aussteiger, sono quei tipi che a un certo punto hanno raggiunto molto successo, molto denaro, si sono stufati della società e se ne vanno via dalla società, naturalmente in Toscana. Devo dire che la Toscana è piena di Aussteiger, queste non c'entrano, solo ne abbiamo parlato, però è la realtà. E quindi lui voleva Aussteigen insieme a questa ragazza giovane, molto bella, svedese, che così ha smesso anche di cantare, aveva una bellissima voce di mezzo soprano, non la dimentico. E così, questa è la storia, questo è stato il nucleo della storia. Non potevi non metterci anche la musica. Era necessario metterci la musica ed era anche necessario per la prima volta di scrivere in prima persona, cosa che faccio molto malvolentieri. Però in questo modo è una specie di diario che la ragazzina scrive per cercare di superare la sua situazione di solitudine e anche di, sì, questa, di inquietudine per tutto quello che le succede intorno. Esatto, quello che le succede intorno. Certo. E c'è un altro aspetto curioso del modo in cui tu dai forma poi alle tue storie, che è quello di andare ad esplorare direttamente in prima persona i teatri dove ambienti i racconti, come ad esempio in Teatro d'Ombre. Sono andata al Teatro d'Ombre, è andata fino in Galizia a vedere com'è oggi appunto questo teatro in cui è ambientato nella prima guerra mondiale, giusto? Sì. Il racconto, è andata a vedere oggi com'è per poter vivere direttamente, per poter avere delle sensazioni, dei feedback, diciamo. Rispetto ai luoghi che lei raccontava. Qui, non ti sei smentita, sei andata in Toscana. 2 settimane. A vedere esattamente com'era il posto in cui questa... Sì, dovevo cercare il posto, la casa dove abitava, mi sono portato il mio gatto naturalmente, quindi scusate, ho una grande passione per i gatti e quindi ho potuto scoprire questo delizioso... casa, perché non è neanche un paese, è soltanto una strada, che si chiama, come si chiama? Roselle. E ho scoperto che ci sono degli scavi romani, è un posto veramente interessantissimo. Io veramente sono stata affascinata e ho pensato, qui metto la storia. Ecco. In Maremma, stupendo, sono stata veramente lì 2 settimane per cercare anche di descrivere l'atmosfera di questo posto. Non posso descrivere un'atmosfera se non ci sono stata, io non ho molta fantasia in questo senso. Tra i protagonisti c'è un padre bigamo, però bigamo. Come al solito ci sono, bigamo. Sono le donne, uomini bigami ci sono nel mondo, è pieno il mondo di bigami. Questo non me l'avevi detto del bigamo? Ero sorpresa. Però sono sempre le donne le protagoniste. E donne capaci persino di accettare che il marito abbia una clamorosa doppia vita, come in questo caso. Cioè, una delle protagoniste è la moglie ufficiale. Tante Sidonie. Sono così forti queste donne che tu racconti? No, sono donne assolutamente normali. Dove sono queste donne forti? Io non lo so, non le conosco. Io trovo che tutte le donne hanno un lato forte e un lato debole. Non possiamo dire quella è una donna forte, ma non lo direi mai. Però è un personaggio molto interessante. È molto. Questa tante signori è il lato, diciamo, devo dire, più emozionale di tutto il romanzo, se voglio veramente specificare, perché gli altri personaggi sono ambigui, hanno varie ombre e luci, mentre questa qui è tutta non posso dire, è l'umanità ferita. E questo è vero, perché lei proviene, se non sbaglio, dalla Boemia o qualcosa del genere, quando ci fu la fine della guerra e furono cacciati via tutti i tedeschi. E lei fu costretta insieme alla madre a scappare, come sono state la bellezza di ben 12 milioni di persone che sono state buttate via da tutte le regioni, non so, la Boemia, tutta la parte est della Germania. Furono cacciati via dopo la fine della seconda guerra mondiale. E lei racconta come lei a 8 anni attraversò questo, è una storia molto triste, ma anche estremamente consolante, perché lei vedeva sempre il lato positivo di tutte queste storie, una cosa incredibile, e fu presa da, più o meno adottata, ma non proprio ufficialmente adottata, ma fu presa dalla famiglia del padre di Serafina. Ed è molto importante, perché lei è sempre grata di quello che ha ricevuto, anche se ha servito, anche se è stata maltrattata, perché lei ha potuto sopravvivere in questo modo. Una cosa che purtroppo ai nostri giorni viene sempre trascurato. Io voglio fare una piccola parentesi. Io vivo in Germania da circa 50 anni. Io sono grata alla Germania che mi ospita, e lo sono ogni giorno, perché io godo di tutti i benefici che questa nazione mi offre. Certo, posso dire, io pago anche le tasse, ma non è soltanto questo. Cioè, io sono veramente, sinceramente grata a questo paese. E questa è una cosa che voglio dire molto, molto forte, laut si dice in tedesco, perché molto spesso viene dimenticato. Molto spesso la gratitudine, io sono grata e non c'è niente da fare. A proposito di Germania. E questo qui è anche lei, è grata praticamente di tutto quello che le è stato dato. Certo. A proposito di Germania, verrà tradotto poi in tedesco? Sì, sì, questo qui è un libro che naturalmente deve essere letto dai tedeschi, perché è un libro che riguarda soprattutto i tedeschi. Io però tornerei un attimo al tema centrale, cioè quello dell'espropriazione delle case, se parliamo della casa del nonno. No, credo che sia interessante, perché le storie di ebrei, insomma, non c'è solo Woody Allen che si accanisce, a parte che sono sempre interessanti comunque, ma questo fenomeno qui in particolare, che ha risvolti che sono arrivati fino ai giorni nostri, nel senso che sono state intentate cause, mi dicevi, perse. Che addirittura... a 70 anni dalla fine, quasi 70 anni della guerra, o 60, certo. Non hanno ancora avuto un riscontro. No, non sono stati risarciti, o in parte, perché naturalmente gli espropri che sono stati fatti legalmente, fatti bene, come nel caso di questo qua, naturalmente è molto difficile poter dire sì, ma lui me l'ha venduta la casa. Se poi ti ha dato 10 invece di 100, questo lo sai soltanto tu. E queste sono situazioni che purtroppo si ripetono. In realtà tutte, quello che pensavo questa mattina, tutte le famose guerre di religione e di razza sono tutte guerre di carattere soltanto economico, perché in realtà la Germania in quel periodo era in una crisi economica grandissima, mentre quei 4, non erano 4, 500.000 non sono poi tanto pochi, ebrei erano ricchissimi. Praticamente avevano la maggior parte del patrimonio tedesco nelle loro mani. la cosa migliore che ha pensato Hitler è quello: li eliminiamo e ci prendiamo la loro roba, cosa che hanno effettivamente fatto. Quindi non ha a che fare né con l'ebreo, né con il nero o con il bianco, con le razze, né con le religioni, ma soltanto con l'economia. E questa è la cosa più grave. Ecco, io credo che se qualcuno ha già letto il libro, perché sono già alcuni mesi che è in libreria, forse qualcuno dalla discussione che stiamo facendo ha qualche curiosità, può prepararsi qualche domanda, chiaramente a bruciapelo, vi do qualche minuto e intanto faccio l'ultima domanda io invece ad Ada, veramente se avete qualche curiosità Ada risponderà volentieri. E l'ultima domanda riguarda il futuro. Siccome nel cassetto non aveva soltanto questo, ma continua a mettercene altri di racconti, di romanzi, un cassetto molto grande, molto prolifica, le chiedo a cosa sta lavorando adesso e cosa dobbiamo aspettarci. Io naturalmente sono piena di progetti, perché una vita senza progetti non è vita, cominciamo così. Allora ho tre progetti, troppa carne sul fuoco si dice solamente, e qualcuna si brucerà, questo lo immagino, però da me si brucia sempre tutto, non c'è un giorno solo che io cucino senza bruciare, ormai è un fatto, un dato di fatto. Però devo dire che io pulisco le pentole poi, il che non è un lavoro da poco, me lo sogno pure, che è sempre a pulire pentole bruciate. Dunque, a parte questo piccolo capitolo poco interessante, devo dire che il mio primo progetto è che sta andando in porto, è la storia di, devo un pochino tornare un pochino indietro, che ho già scritto 35 anni fa, scusate. Ah, mamma mia, la vita è una gran bella cosa, devo dirvi. Ed è, cioè, il titolo è Una generazione allo specchio. E sottotitolo Esperienza di gruppo. Si tratta di un'esperienza di un gruppo di terapia fra persone che sono nate durante la Seconda Guerra Mondiale e altre che sono i nipoti di questi. Quindi è un confronto di queste due generazioni che mi ha molto affascinato, e questo qui è quello che uscirà abbastanza presto, non so cosa ne dice lui, che è quello che lo deve fare. Poi un lavoro che sto facendo veramente con moltissimo interesse, e che non lo faccio io, questa volta lo faccio fare agli altri, e cioè è un libro il cui titolo è Per il momento wieso singe ich, perché canto. E questo mi è venuta l'idea di fare un omaggio ai miei allievi. Io ho moltissimi allievi, ne ho dovuto scegliere soltanto 27 o 28, ai quali ho mandato una serie di domande, 18 domande, alle quali loro risponderanno. E diciamo, quindi è una... che la maggior parte sono professionisti, e che tra, sì, questi c'è anche Gemma Bertagnoli. Va bene, ma ce ne sono di tu, ho due Kamasenga, eccetera, eccetera. Ho anche allievi di livello, come Gemma, altri di altro livello, eccetera. Di tutti i livelli, però, E ognuno ha ricevuto questa serie di 18 domande, abbastanza sconvolgenti, mi hanno detto. Non l'avevo immaginato, perché hanno dovuto mettersi a confronto con se stessi. Sono domande più o meno a carattere psicologico, e questo sarà, è questo libro che uscirà in due lingue, perché avendo gli allievi di lingua italiana e la maggior parte di lingua tedesca, allora ci sarà la traduzione sia dell'uno che dell'altro. Questo qui è il secondo progetto che penso mi occuperà moltissimo, ma nel 17, adesso 2017. Il terzo libro è molto strano, perché si tratta di un'altra volta di racconti, e confesso che in questo momento non me lo ricordo, non me lo ricordo, ve lo dirò appena me lo ricordo. Qual è questo terzo libro? Ah, grazie, finalmente serve a qualcosa avere un marito. Dunque, dalla Sicilia alla Toscana, sono dei racconti in parte miei e in parte di una scrittrice della Toscana, ed è un libro bilingue per chi impara il tedesco oppure l'italiano, anzi per chi impara l'italiano. perché lo confesso, lo dico molto apertamente, ho scritto recentemente, neanche un anno fa, un altro libro, Storie di donne e altre creature, in due lingue, cioè in italiano e in tedesco, e questo libro devo dire che è quasi finito. Questo mi ha invogliato, dico, questo è un buon filone, facciamone un altro, così come succede sempre in queste occasioni. E quindi ho fatto un altro, appunto, dalla Sicilia alla Toscana. Sono tre racconti ambientati in Sicilia e tre racconti ambientati in Toscana. Questo è il terzo progetto. Bene, ho finito. Siete allertate e allertate. Qualche domanda? Posso chiedere, perché hanno rifiutato il titolo del libro? Ah, non lo so, hanno trovato il titolo banale. Ah, dice troppo banale, A casa del nonno, ma cosa vuol significare? Evidentemente non hanno letto il libro, e questo lo fanno purtroppo molti editori che non leggono i libri e quindi si basano soltanto sul titolo, oppure sulla sinossi. Vogliono sempre una sinossi, una pagina in cui si racchiude praticamente tutta la storia che si svolge poi in 200 pagine. E me l'hanno rifiutato. Cioè lo volevano, ma io non ho accettato di cambiare. Questo è un po' il mio carattere. Non c'è niente da fare. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Io sono sempre pronta a rispondere. Io avrei una domanda, però credo che il libro non l'ho letto. Non c'entra quel libro. È risaputo che le cantanti giovani, anche avanti un po' di anni, rarissimamente hanno un figlio o una figlia, perché dicono che la voce si guasta. È la prima volta che sento questo. Ma io l'ho sentito frequentemente, non c'è, francamente ho notato che nel mondo della lirica ci sono pochissime cantanti. Certo, ma i motivi non sono quelli. Sulla carriera. Ma guardi, io ho alcuni esempi, addirittura ho una allieva che aspetta il quinto figlio, questo è un caso molto eccezionale, un contratto, ma la voce non c'entra. Il fatto fondamentale quando una cantante ha un figlio è che non ha più il tempo, perché un bambino significa la notte non dormire, tutte queste cose. Come si fa ad avere un bambino piccolo e anche grande, ma questo è un problema che ho avuto anch'io personalmente, se o si ha una nonna, un nonno, un marito o qualcosa che si occupa sistematicamente del bambino o della bambina, oppure si rinuncia, ma questo dobbiamo... Non è vero, la voce, anzi la voce semmai migliora, perché la voce è un prodotto ormonale, è un prodotto ormonale. Come tutti noi siamo prodotti ormonali, quindi quando c'è questo cambiamento, io ho cantato fino all'ottavo mese e non ho mai cantato così bene in vita mia, devo dire, perché era un equilibrio ormonale perfetto. Allora non avevo mai sentito questo. Frequentemente poi anche le grandi cantanti. Ma una grande cantante ha eccettuato una che ha una quantità tale di soldi, però i sensi di colpa di una madre dove li mettiamo? Questo è un altro fatto. Io posso prendere una persona che pago e si occupa della bambina, del bambino, e io me ne vado. Ma io, se metto al mondo un figlio, lo voglio anche seguire, voglio amarlo, voglio dimostrargli che sono qui. E una cantante questo non può farlo. I cantanti uomini sì, chiaramente, perché io ho un allievo che ha due figli, se non sbaglio, hanno una casa in cui lui all'ultimo piano alla sua stanza, e la madre, la moglie, con i bambini qui possono strillare quanto vogliono, tanto lui chiude e non lo sente, e non sente niente. Perché quando si ha una recita, una prova, una cosa, si deve dormire, si deve essere riposati, eccetera. Questa è la realtà. Infatti gli uomini maschi hanno tutti i cantanti dei figli, più o meno. Le cantanti molto raramente. Ma non per motivi di voce, soltanto motivi molto più pratici. Però, le cantanti è quello di più, ma anche ti occupa un posto comunque nello spettacolo, degli attori. Giusto, attrici. Anche per un'attrice credo che non debba essere facile avere un bambino che piange e chiede. Io mi ricordo il mio bambino di 4 anni che mi dice: mamma, ma perché devi cantare? Esatto. E questo qui l'ho voluto mettere qui. Infatti mi è piaciuto molto, adesso leggerò il libro, questo passaggio che ha letto la signora, certo, Trevisan, certo, su questa figlia che era gelosa della voce, certo, e della, certo, passione. Certo, della, ma questo qui lo conosce anche lei. Certamente, molto bene. Io ho un figlio, certo, e quando sono in Pordenone, lo vedo. Certamente. Domenica notte, la chiaramente, mia, adesso è grande, non mi vuole più vedere lui. Ma problema è classico, no? Ma insomma, fin quando era piccolo è stato così. Quando, certo, era piccolo piccolo, me lo portavo dietro con la babysitter, sembravamo il carrozzone degli zingari, certo, i passeggini, certo, posso immaginare. Ma quando arrivava l'ora in cui dovevo lasciarlo per andare in teatro, cioè alle 5 del pomeriggio, perché una cosa deve andare a presto, deve concentrarsi, deve ripassare la parte, eccetera. Lui, anche se aveva la babysitter che viveva con noi, quindi era una sorella, si buttava per terra e le faceva le scenate, ma conosco bene. Delle scenate terribili. E poi crescendo, una volta mi ha detto: mamma, io non riuscirò mai ad innamorarmi davvero di una ragazza, perché io ho sofferto troppo. No, mamma, ha visto? Allora, carissimo, questa è la risposta alla sua domanda, perfetta, perché anche un'attrice deve concentrarsi e deve pensare, deve essere lì, e a un certo punto non è più la mamma. E quando un bambino vede che questa persona non è più la mamma, sono crisi. Conosciamo molto, conosco molto bene, e i sensi di colpa. Anche questo dice, ma io cercavo di dire: ma tutte le mamme oggi lavorano, no? Tutte le mamme, sì, ma è un lavoro diverso. Mi rispondeva: sì, ma le altre mamme alla sera ci sono, e tu no. Ecco, così le ha buttato un bel paio di sensi di colpa, proprio di quelli forti. Però devo dire che adesso se la cava molto bene. Meno male. Perché poi ben un'altra scelta. Sono più forti, no? I figli riconoscono i genitori che hanno, e si adattano ai genitori che hanno. Chiaramente. Cioè, certamente. Cercano di trovare più spazio. Sì, ma imparano anche molto, imparano molto a soltanto questo. Se una madre cede in tutto, il figlio o la figlia non diventa indipendente. Questo qui è molto importante. Parliamo di tante sì, cose. Facciamo dimmi. Perché tutti o quasi tutti i tuoi allievi in fondo ti raccontano? Dunque, intanto parliamo del primo principio, che ognuno di noi ha il bisogno di raccontare. Questa qui è una cosa, tutti, se io mi trovo, anche lei mi ha raccontato adesso, non è neanche mia allieva, però ha sentito il bisogno di raccontare, perché ognuno di noi ha bisogno di un orecchio che ascolta abbastanza interessato, e questo lo sono. Io ascolto sempre molto i miei allievi, chiaramente. Quindi loro hanno un rapporto di fiducia della quale io sono estremamente grata, perché quello che, infatti, questo libro che farò, questo sì, Perché canto, è un omaggio ai miei allievi, è un grazie che dico a loro, perché senza di loro io non sarei quella che sono. È uno scambio continuo. Io insegno qualcosa, ma loro mi insegnano tantissimo. E quindi è uno scambio, e un giorno dovevo dire grazie, e lo dico con questo libro. Questo qui per me è estremamente importante, perché moltissimi insegnanti non si rendono conto che nel momento stesso in cui insegnano, imparano. E io ho imparato tanto dai miei allievi, che loro mi guardano sempre, dico sempre, scusate se dico questa frase, in realtà dovrei pagarti io, invece che tu paghi me, perché ricevo tanto da loro. Questo è molto importante. Posso chiedere perché rifiuta la sua sicilianità? Ma io non rifiuto la mia sicilianità, nel senso, posso dire che rifiuto anche la mia italianità. Io rifiuto ogni senso nazionale. Allora, proprio oggi diceva mio marito, se ci fosse un passaporto europeo sarei la prima a prenderlo, perché mi rifiuto di qualificarmi con una nazione, con un posto. Io sono un essere umano che vaga giustamente da un paese all'altro e si incontra con altri esseri umani. Uguale se questi sono siciliani, sono tedeschi, sono sudtirolesi o svizzeri, perché sono stati in vari paesi, eccetera. Sono sempre esseri umani per me. Quindi il fatto di essere siciliano, beh, non è che io sia stampigliata, no, però naturalmente ha dato un fondo alla mia personalità. Più che essere siciliana, io sono figlia di due genitori siciliani, ecco, diciamo, questa è la realtà, e con loro mi identifico molto, questo è chiaro. Io dopo posso dire, purtroppo i miei genitori, è chiaro, sono morti da moltissimi anni, dopo tantissimi anni li vedo come esseri umani, non più come genitori, e li vedo in un modo molto pieno di grandissima comprensione, anche per tutti gli errori che hanno commesso nei miei confronti, e sono anche grata addirittura degli errori che hanno commesso nei miei confronti, perché in questo modo mi hanno insegnato a reagire. Allora, io sono figlia di due genitori siciliani, diciamo così, ed è un vero caso. C'è un'altra domanda. C'è una domanda. Posso chiederla cosa per lei Heimat? Heimat è una parola tipicamente tedesca, se mi permette di dire, intraducibile in tutte le altre lingue. Ci deve essere un motivo. Beh, che sicuramente, perché questa storia di Heimat, infatti, viene fuori in questo libro, la ricerca di questa parola, Heim, che ha a che fare con la casa. Allora, siccome la mia casa è il mondo, io non posso sentire la Heimat nel senso chiuso e ristretto, come questa parola suggerisce. Molto difficile da spiegare, ma io mi rifiuto, perché il mondo è talmente grande, e oggigiorno è diventato così piccolo, poi, che se ci riduciamo al posto dove sta il luogo natio, mo insomma, io sono tornata a Catania per una presentazione, insomma, cosa non molto importante. Ad ogni modo, sono tornata a Catania e ho rivisto la mia casa. Boh, dico, ma guarda dove sono nata. Ciao, e me ne sono andata. Devo dire che sono felice di essere andata. E questo devo essere grata a mio padre, che mi ha detto quella famosa frase: soltanto gli alberi hanno radici. Cioè, la mia radice non è quella casa, né l'Italia, né la Sicilia, neanche la Germania, è il mondo. Devo dire che ne sono abbastanza contenta, ma soprattutto l'Europa. Io adoro l'Europa, io ho una grande passione per l'Europa. Non c'è un continente nel mondo così interessante come l'Europa, con tutti i suoi lati negativi e positivi. Sono felice di essere europea, ecco, questa è la fine. C'è qualche cosa ancora? Io volevo dire, sono perfettamente d'accordo con questa affermazione, perché se ci abituassimo a non essere alberi, ma essere persone che si muovono con due gambe, infatti lui ha detto, a liberare i propri orizzonti, certamente si guadagnerebbe moltissimo. Io anche mi sento molto libera, non mi sento di non avere delle radici. Sono giusto, convinta che potrei vivere benissimo in qualunque posto, perché non mi sento queste barriere. Però, data l'età, mi emergono, te l'avevo già parlato, le memorie, le persone, e quindi il desiderio che tu dicevi di dire io sono così anche per chi mi ha preceduto, capiamo chi era, no, più profondamente, mettiamolo in un contesto che sia storico, del periodo che hanno vissuto, della vita che hanno fatto, e di questo ne trovi il giovamento. Forse proprio per questo è vero, siamo senza radici, siamo libere, la mente molto libera, non accettiamo barriere o condizionamenti, però serviamo, ecco, siamo grate a queste persone che non ci sono più, ma tante altre, anche quelli che abbiamo magari incontrato nella nostra certamente vita casualmente, che però ci hanno dato dei segnali molto importanti. Quindi questo, sono veramente molto molto d'accordo con te, come sono d'accordo con te che l'incertezza, l'insicurezza genera conflitti e genera guerre. Certo. Cioè, quando tu hai non tanto la paura, perché è un sentimento insomma che ti può bloccare in quel momento lì, però certamente il fatto di sentirsi incerti, insicuri, questo provoca una reazione che è non è razionale. Certamente, però l'origine dell'insicurezza è la non conoscenza. Esatto. E questo qui è una questo che questo è molto importante. Ecco perché io sempre dico, cioè non ho ancora scritto un solo racconto, una sola anche breve storia anche di bambini dove non entra la storia. Cioè la storia, quella grande, quella con la S maiuscola, quella che ha sconvolto l'Europa. Questo non posso assolutamente eliminare, perché in ognuno di noi c'è questa parte di storia. Non siamo così come siamo perché abbiamo questa storia dietro di noi, non possiamo ignorarla. E mi dispiace tantissimo che venga trascurato moltissimo la storia del XX secolo. Cioè sappiamo tantissimo dei romani, degli egizi, ma a me non me ne importa proprio niente. Io voglio sapere cosa è successo il secolo scorso in Europa e perché. Questo qui purtroppo viene tenuto, ma qui ci sono anche dei motivi puramente politici, questo è chiaro. Bene. Ancora viva, no? Ancora viva, ci sono ancora i testimoni. Certo. Sono, è molto, sì, e più spariscono e più la storia diventa nebulosa, quando invece dovrebbe essere molto chiara, soprattutto per le generazioni che vengono adesso. Ma se non è chiara ai genitori, se loro hanno tentato di ignorarla, come in alcuni racconti, non so, mi ricordo quella delle inquietudini della sora Elsa, c'è un racconto in cui c'è la generazione del silenzio. Subito dopo la seconda guerra mondiale c'è stato un silenzio generale. Ignorare tutto quello che è stato giorno prima, non dico un mese o un anno, un giorno prima, questo qui è molto grave. Questo è molto grave. Non bisogna, quello che si dice in tedesco, verdrängen die Geschichte, non bisogna, come si dice in italiano? Rimuovere la storia, perché è una parte importante di noi. Cioè noi siamo così come siamo appunto per questo motivo, per la storia che io adoro. Bene, credo abbiamo il tempo, ringrazio. Siamo arrivati appunto, siamo puntualissimi. Anche se mi hai fatto diventare così inutile che adesso spegnerò la luce e vado. No, fai un appello all'acquisto del libro. Ah sì, c'è Atesia che ha a disposizione tutta la bibliografia di Ada Zamperi Zucchero. Grazie per essere intervenuti e buona serata. Grazie a voi.